contro gli uomini frivoli e insulsi. Neppure gli uomini quindi si intrattengano nelle botteghe dei barbieri e nelle bettole, perdendosi in chiacchiere e frivolezze, e la smettano una buona volta di dar la caccia alle donne che passano. Essi non cessano di parlar male degli altri per suscitare il riso. Bisogna anche distoglierli dal gioco dei dadi e così pure dagli astragali, ad essi molto cari, con cui cercano di arricchirsi. Tutti lussi e mollezze inventati per questi sciagurati per digiorno dalla loro prodigalità. E causa ne è l'ozio, perché chi è lontano dalla verità ama le cose vane. Costoro, infatti, non riescono a trovare soddisfazione in altro modo se non con proprio danno. I propositi di vita di ciascun uomo, infatti, rispecchiano il suo modo di pensare. Perciò, a quanto pare, è vantaggiosa solo la frequentazione di uomini per bene. Così il sapientissimo pedagogo che ha parlato per bocca di Mosè, ben sapendo che la compagnia degli uomini malvagi è sozza come i maiali, vietò al popolo antico di mangiare carne suina, mostrando in tal modo che coloro che invocano Dio non devono contaminarsi con uomini impuri, i quali, alla maniera dei porci, si compiacciono dei piaceri del corpo, dei cibi melmosi, degli stimoli della lussuria e ardono di brama per le voluttà del sesso, godendo di ciò che è male. Ma ordina anche di non mangiare il nibbio, l'uccello rapace dalle ali veloci, l'aquila, che è come dire, non ti accosterai a coloro che si guadagnano da vivere con la rapina. E così anche le altre cose che afferma possono avere un senso allegorico. Con chi dunque bisogna avere familiarità? Con i giusti, dice egli, sempre in termini allegorici. Infatti ogni animale con l'unghia bipartita e che rumina è puro. L'unghia bipartita significa la giustizia imparziale, la quale rumina il cibo adatto alla giustizia, cioè il logos, che dall'esterno entra in noi, proprio come il cibo, tramite l'insegnamento dottrinale, e dall'interno poi viene a sua volta indirizzato dall'intelletto come fosse lo stomaco, verso la memoria razionale. Così il giusto, avendo nella sua bocca il logos, rumina un cibo spirituale, e la giustizia appare manifestamente con l'unghia bipartita, poiché allo stesso tempo ci santifica in questa vita e ci porta a quella futura. Condanna degli spettacoli teatrali. D'altronde il pedagogo non ci condurrà neppure agli spettacoli teatrali. Non sarebbe senza ragione, infatti, se gli stadi e i teatri venissero detti cattedra di pestilenza. Anche là, infatti, vi è un senato malvagio come quello che condannò il giusto, e perciò il consiglio riunito contro di lui viene maledetto. Questi assemblamenti sono davvero pieni di ogni disordine e trasgressione, e i pretesti di tali riunioni sono causa di indecenze dal momento che uomini e donne vi si recano promiscuamente per mettersi reciprocamente in mostra. In quei luoghi l'aggregarsi è fondato sulla frivolezza e la millanteria. Gli sguardi sono avidi, le brame si surriscaldano e gli occhi, abituandosi a guardare gli altri con sempre maggior sfrontatezza, già che è loro concessa piena licenza di far ciò, infiammano le passioni sensuali. Siano dunque vietati gli spettacoli visivi e le audizioni musicali piene di ciarlatanerie e di futilità. Quale azione vergognosa, infatti, non è messa in scena nei teatri? Quali parole indecenti non proferiscono i buffoni? Gli spettatori, poi, dilettati dalla bruttezza morale degli attori, una volta tornati a casa cercano di imitare apertamente il loro modello. Coloro invece che non si lasciano sedurre e commuovere da queste cose non scivoleranno mai nei languidi piaceri. E se qualcuno dicesse che gli spettacoli possono essere ammessi a guisa di divertimento, per il sollievo dell'animo, rispondo che non sono affatto sagge quelle città per le quali anche il divertimento diventa oggetto di seria sollecitudine. Non sono più divertimenti questa ricerca di fama, tanto impietosa da arrivare ad uccidere, né queste vuote sollecitudini e l'ambizione irrazionale, né il vano dispendio di denaro, né le sommosse che si creano in occasione degli spettacoli. Tutto ciò non è più divertimento. Richiamo alla saggezza e invito all'onestà nel commercio. La spensieratezza non deve essere mai acquistata al prezzo di vane sollecitudini. Chi ha senno, infatti, non anteporrebbe mai ciò che è più piacevole a ciò che è meglio. Ma non tutti si dirà siamo dei saggi. E allora forse non tutti ricerchiamo la vita? Tu che dici? Perché hai aderito alla fede? Come puoi ancora amare Dio e il tuo prossimo senza praticare la saggezza? Come ami te stesso se non ti è cara la vita? Ma io risponderà, non ho appreso a leggere. Se non sai leggere, non hai però scuse per l'ascoltare che non necessita di essere appreso. La fede, infatti, è il possesso non dei sapienti secondo il mondo, ma dei sapienti secondo Dio. Essa si insegna senza bisogno di lettere e il suo trattato, allo stesso tempo plebeo e divino, si chiama carità, è un trattato spirituale. È possibile ascoltare la sapienza divina, ma è possibile praticarla anche nella vita sociale. Né alcunché impedisce di comportarsi rettamente, secondo Dio, in rapporto alle cose terrene. Così, ad esempio, chi vende o compra qualcosa non deve mai dire due prezzi differenti, uno per l'acquisto e uno per la vendita, ma deve avere un unico prezzo ed essere sollecito di dire la verità. Se non guadagnerà sul prezzo, guadagnerà però la verità e si arricchirà di uno stato d'animo onesto. Vendendo qualunque cosa, poi, si eviti l'elogio della propria merce e il giuramento. Quest'ultimo va evitato anche nelle altre circostanze. I mercanti e i bottegai apprendano la saggezza secondo quel che sta scritto. Non pronuncerai il nome del Signore invano, poiché egli non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano. Coloro che agiscono contro queste parole, cioè gli amanti del denaro, i mentitori, gli ipocriti e quelli che mercanteggiano la verità, il Signore li espulse dalla casa del Padre, non volendo che la santa dimora di Dio fosse dimora di iniquo commercio di parole o di beni materiali. Contegno degli uomini e delle donne in chiesa. Bisogna far sì che tanto la donna quanto l'uomo si rechino in chiesa vestiti con decenza, si muovano con passo dimesso, custodiscano il silenzio, posseggano una carità sincera, siano puri nel corpo e puri nel cuore, occupati nel pregare Dio. La donna inoltre osservi quanto segue. Sia sempre velata, eccetto che quando si trova a casa sua. Questa infatti è una tenuta nobile e impenetrabile agli sguardi. Tenendo davanti agli occhi il pudore e il velo, essa non cadrà mai in fallo e non indurrà nessuno altro a scivolare nel peccato con lo scoprirsi il viso. Questo dunque è quel che vuole il Logos, poiché ad essa si addice di pregare a capo coperto. Si racconta che la moglie di Enea aveva un tal grado di nobiltà d'animo che neppure quando fu presa Troia essa impaurita si tolse il velo, ma fuggendo dall'incendio si tenne velata. Coloro che sono iniziati ai misteri di Cristo dovrebbero in ogni circostanza della vita mostrarsi e atteggiarsi nello stesso modo e con la stessa gravità con cui si comportano in chiesa. Come lì, così anche altrove dovrebbero essere, e non solo sembrare, altrettanto miti, riservati, pieni di carità. Io davvero non capisco come essi si tramutino, a seconda dei luoghi, cambiando aspetto e comportamento, alla maniera dei polipi, che, si dice, diventano simili alle rocce tra le quali dimorano, tanto da apparire perfino dello stesso colore. Ugualmente, questi cristiani, una volta allontanatisi dall'assemblea liturgica, abbandonano l'atmosfera divina che regnava in essa e si fanno simili alla massa della gente con cui vivono in comune. Appare così ancor più evidente che essi, messa da parte la loro finta maschera di serietà, sono nella realtà quali in chiesa non sembrava affatto che fossero. Lì infatti erano riverenti verso la parola di Dio, ma poi lasciano là dentro ciò che hanno ascoltato e usciti fuori se ne vanno in giro in compagnia degli atei, rintronandosi di suoni e di melodie erotiche, di musiche di flauto, di baccano, di ubriachezza e di ogni volgarità e immondizia. Tali cose essi cantano e ripetono, loro che poco prima inneggiavano all'immortalità, e finiscono poi miserabili col salmodiare miserabilmente il più letale adagio: mangiamo e beviamo che domani moriremo. Non domani in verità essi moriranno, ma già ora sono morti a Dio, poiché seppelliscono i loro morti, cioè gettano se stessi nella fossa della morte. Con estremo vigore l'Apostolo si oppone loro. Non ingannatevi, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avidi, gli ubriaconi e i calunniatori, né tutti gli altri vizi che fanno da accompagnamento a questi, erediteranno il regno di Dio. Anche nel baciarsi e abbracciarsi bisogna mantenere riservatezza e pudore. Ma se noi siamo stati chiamati al regno di Dio, dobbiamo comportarci in modo degno del suo regno, amando Dio e il prossimo. Ora l'amore non si giudica dal bacio, ma dalla bontà d'animo. Questi tali invece fanno risuonare le chiese di nient'altro che dei loro baci, filema, ma dentro di sé non hanno l'amore, filun. Per di più, questo uso smoderato del bacio ha suscitato vergognosi sospetti e calunnie. Il bacio dovrebbe essere qualcosa di spirituale. L'Apostolo lo chiama santo. Si tratta cioè dell'anima che tramite labbra caste e chiuse manifesta la sua benignità e in ciò principalmente si mostra l'affabilità. Ma vi è un altro genere di bacio, impuro, pieno di veleno, contraffattore della santità. O forse non sapete che la tarantola, se solo tocca le labbra degli uomini, provoca ad essi terribili dolori e che in molti casi i baci iniettano il veleno della lussuria? Ci è dunque ormai chiaro che il bacio non è carità. La carità, infatti, è di Dio. In questo consiste l'amore di Dio, dice Giovanni, nell'osservare i suoi comandamenti e non nel lusingarci a vicenda con le labbra. E, dice, i suoi comandamenti non sono pesanti. Anche quell'abbracciarsi degli innamorati per strada è segno di un insensato permissivismo, caratteristico di chi ama mettersi in mostra davanti agli altri, ed è un comportamento privo della benché minima grazia. Se infatti è giusto pregare Dio spiritualmente in luogo segreto, ne dovrebbe conseguire che alla stessa maniera in cui preghiamo Dio e sempre spiritualmente, dovremmo approfittare dell'occasione di esprimere il nostro affetto dentro casa al nostro prossimo che ci è prescritto di amare in secondo luogo, dopo Dio. Noi infatti siamo il sale della terra e chi benedice un amico di prima mattina ad alta voce non sembrerà in nulla differire da chi lo maledice. Si può dire comunque che al di sopra di tutto è importante evitare di guardare le donne. Non solo infatti il contatto fisico, ma anche lo sguardo è occasione di peccato, e da ciò deve assolutamente rifuggire chi è sotto la nobile educazione del pedagogo. I tuoi occhi guardino diritti e le tue pupille mirino rettamente. Non è forse possibile infatti che pur avendo guardato ci si trattenga saldi? Bisogna invece guardarsi dal cadere nel peccato. Chi ha visto può scivolare, ma chi non ha visto è impossibile che concepisca il desiderio. A chi è casto non è sufficiente essere personalmente puro. Bisogna che egli si adoperi con sollecitudine di non incorrere in nessun biasimo, allontanando qualunque motivo di sospetto per raggiungere così la pienezza della castità. Allora non solo saremo fedeli, ma appariremo anche agli altri degni di fede. Anche da questo infatti bisogna guardarsi, come dice l'Apostolo, che nessuno ci biasimi. Dobbiamo formulare buoni propositi non solo al cospetto del Signore, ma anche degli uomini. Distogli quindi gli occhi da una donna graziosa e non stare a guardare una bellezza altrui, dice la Scrittura. E se ne chiedi il motivo, te lo spiegherà. Per la bellezza di una donna molti si sono perduti, poiché da essa avvampa l'amore come fuoco. Un amore provocato dal fuoco e che tramite il peccato conduce al fuoco eterno. Un amore chiamato Eros. Ancora esposizione sommaria del miglior stile di vita. Quali brani delle Sacre Scritture caratterizzino il modo di vivere dei cristiani? Castità e modestia nel matrimonio. Io raccomanderei anche agli uomini sposati di non baciare mai le proprie mogli al cospetto dei servi. Aristotele non permetteva neppure di sorridere agli schiavi in nessun caso. Tanto più allora non si dovrà sotto il loro sguardo esprimere l'affetto verso la propria moglie. È meglio infatti che si cominci da casa, dal matrimonio, a mostrare la propria serietà morale. Davvero gran cosa è una coppia che si fonda sulla castità e che emana il profumo di un piacere puro. come dice con parole meravigliose la tragedia, «O donne, all'umanità in vero non l'oro, non il potere, non il lusso delle ricchezze conferì mai a tal punto piaceri di vario genere quanto un uomo generoso e una donna pia dal cuore retto e dai pensieri onesti». Queste esortazioni alla rettitudine, pur essendo state pronunciate dai seguaci della sapienza mondana, non devono essere da noi scartate. Invito alla conversione. Conoscendo dunque le opere di ciascuno, comportatevi con timore nel tempo del vostro esilio, sapendo che non con cose corruttibili, argento o oro, siamo stati riscattati dalla nostra vana condotta trasmessaci dai nostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello irreprensibile e immacolato. È sufficiente infatti ormai il tempo trascorso, dice Pietro, in cui abbiamo fatto la volontà dei pagani camminando nelle vie della dissolutezza, della concupiscenza, dell'ubriachezza, dei bagordi, delle crapule e dell'idolatria criminale. Prendiamoci come limite la croce del Signore, la quale erge intorno a noi come un recinto di croci e una muraglia di difesa contro i peccati passati. Ora che siamo stati rigenerati, inchiodiamoci alla verità, ridiventiamo sobri e santifichiamoci, poiché gli occhi del Signore si rivolgono ai giusti e le sue orecchie alla loro supplica. Ma il volto del Signore è rivolto contro chi opera il male. E chi potrà farci del male se ci facciamo emulatori del bene? Ora la migliore condotta è costituita dal rispetto del giusto ordine, un decoro perfetto, una forza ordinata e salda, esecutrice fedele delle disposizioni che si susseguono l'una all'altra, insuperabile per virtù.